colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti, questa è Radio Alma, come tutti i lunedì sono le 21 e fino alla 20, alle 22 sarete in gentile compagnia. Questa sera è il nostro turno, Cecilia, io e te in come voci parlanti, come voci, e alla regia c'è un uomo imbacuccato, dovreste vederlo, ha il cappello quello proprio per andare sulla neve, sciarpa, guanti. Qua fa un po' freschino stasera, ma ci riscalderemo, sento che ci riscalderemo parlando con voi. Che ne dici, Cecilia? Ti ispira la puntata di stasera? Sì. Ti va di dare un po' tutti i numeri? Che faccio, dai numeri? Dai numeri. Allora, intanto c'è il microfono che questa sera è alto e io sono bassa e quindi non ci arrivo, non importa. Wow, i numeri. Al TG1 stasera. TG1, questa Cecilia. Sera. Allora, se volete parlare con noi potete chiamarci allo 02 345 26 56 oppure se ci chiamate dall'Italia 0032 2 345 26 56. Se volete potete scriverci sulla nostra pagina Facebook che è Angelo e Carla On Air, giusto? Prima o poi lo cambieremo, Cecilia. No, non importa, c'è ancora Giampaolo, io sono sempre contenta. Sai che era un bel ragazzo. A proposito, un saluto caldissimo a Giampaolo che sappiamo che non è in linea, però ci piace pensare che potrebbe esserlo. Potrebbe, dai, è sempre c'è una possibilità. Quindi un abbraccio a Giampaolo, un abbraccio a Londra, ti aspettiamo che magari insomma per la prossima puntata di marzo, se ci fai una capatina, sei il benvenuto, o magari chissà che più tardi non possiamo chiamarlo. Che ne dici, all'Angelo, alla regia, si potrebbe fare? Ma sì, tanto sono anche un'ora indietro, quindi dai, è presto. La regia è oggi è creativa, il freddo ispira e conserva. Ma Cecilia, che dici, lo introduciamo il tema di stasera? Introduciamo il tema di stasera? Di già, così, di solito facciamo sempre tipo un momento suspense, musicale, suspense. No? Sei pronto? Non è pronto. Ha detto che gli si sono congelate le mani, quindi non riesce a far partire il CD, ha bisogno di un po' di alle mani e lo vedremo sicuramente tra qualche minuto in fase avanzata di scongelamento. Abbiamo messo su defrost. Allora, diamo però qualche anticipazione, dai Cecilia, sennò i nostri radioascoltatori cambiano canale. Ma che novità però, introdurre così subito l'argomento, è così nuovo. Ma io vi posso dire che ho iniziato a dare dei piccoli indizi su Facebook, sulla nostra pagina, e parleremo di parecchie associazioni che si sono formate nel Sud Italia, tra l'altro, diciamo, partiremo da questo tema perché sono rimasta colpita da un articolo che ho letto appunto su alcune associazioni che si sono formate in Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e ovviamente ce ne sono mille altre, ma io per il momento ho trovato queste, di persone che sono in primo momento emigrate, poi sono ritornate e si sono dette: ma perché non rivalorizziamo il nostro territorio? E abbiamo anche qualcuno che ci potrà parlare non di un'esperienza diretta, ma di un'esperienza, diciamo, come dire, indiretta. Brava Cecilia. La Russe è per il francese, Zanichelli. E perché non parlarne e fare conoscere queste associazioni? Tra l'altro ho scoperto che quella in non mi ricordo più, in Puglia, cerca persone che propongano nuovi progetti, quindi niente, l'ho trovato particolarmente interessante. Ma passiamo la linea alla regia e il primo brano di questa sera sarà... Ed eccoci ritornati su Radio Alma. Vi siete persi durante questo bellissimo intermezzo musicale e la regia si è riscaldata ballando e cantando e quindi si sono tolti un paio di strati, quindi da pinguino siamo in modalità scongelamento. Quindi ma siamo ritornati per parlare insieme a Carla e ad Angelo, che non ha nemmeno fatto un saluto, se possiamo dirlo. Nemmeno un ciao, un buonasera. È freddo stasera, chissà perché. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su Ed eccoci tornati dopo il fantastico jingle di Colori dell'Anima. Momento di panico, c'è stato un momento di panico. Allora, Cecilia, di che stavamo parlando prima di della maschera? Esatto. Allora, sono stata colpita, come vi dicevo, siamo stati colpiti dalla lettura di un articolo di una serie di associazioni che si sono formate nel Sud Italia, e questo articolo porta il nome L'innovazione nasce al Sud. Ma non ce la vogliamo tirare, anche perché sennò Cecilia me ne tira una in fronte. Però che cosa è successo? Sono l'unica nata sopra Roma. Ecco, quindi... Però diciamoci la verità, ce la vediamo brutta al Sud, anzi purtroppo noi stiamo qua, quindi, però loro se la vedono brutta, e quindi dalla necessità virtù, e allora tutta una serie di ragazzi più o meno della nostra età, nostri coetanei, sono andati, hanno fatto esperienze all'estero, hanno vissuto un po' quella che è la cultura e la valorizzazione del territorio, dei paesi nei quali sono stati, e poi hanno deciso di tornare nella propria terra e dire: ma perché non sfruttiamo quello che abbiamo visto che gli altri paesi fanno un pochettino per valorizzare il proprio patrimonio, dato che noi ne abbiamo tanto, sia a livello culturale, gastronomico, eccetera. E allora ci sono tutta una serie di associazioni che veramente vantano qualità differenti ma altrettanto valide. Posso a questo proposito elencare l'associazione CLAC, che ha creato a Palermo l'Ecomuseo Mare Memoria Viva, che raccoglie documenti, testimonianze e video sul mare siciliano. Quindi il sito è clac-lab.org, che ho appena postato sulla nostra pagina Facebook, ed è appunto un'associazione che a Palermo ha raccolto quanti più ricordi, foto, documenti che raccontano di tutta la costa palermitana, e nel quartiere Brancaccio hanno formato questo museo, un ecomuseo, e dice è un'alternativa al centro commerciale per poter passare diversamente il vostro weekend con i bambini, piuttosto che di chiudersi appunto nei centri commerciali, ecco, di riscoprire la costa palermitana. Ma non è solo questo, in quanto è anche un laboratorio di progetti culturali, di turismo, appunto ovviamente valorizza quella che è la città di Palermo, il turismo palermitano e le imprese creative, eccetera. E questa mi sembra un'associazione, questo aspetto di questa associazione mi fa pensare a quella pugliese di cui stavamo parlando, Cecilia, non so se ti va di parlarne. Abbiamo trovato anche il sito di questa associazione, sì, è un'associazione e pugliese, che scommette più sulla cultura e sullo scambio di quelli che sono le capacità, il saper fare di ciascuno, e che si chiama Exfadda. Potete trovarlo sul sito www.exfadda.it, e ci sono tutta una serie di progetti veramente molto, come dire, vari nella loro proposta, perché ci sono dalla musica alla valorizzazione della produzione, dell'artigianato, della produzione anche ortofrutticola. Io non l'avevo notato che era addirittura... io l'ho notato il chiacchierino, perché sai che ho una passione assolutamente... Sì, ma poi c'è teatro di strada, ci sono corsi sull'autostima, cioè ci sono corsi sul cibo, sulla pittura, sul disegno. E poi a me ha colpito sinceramente il laboratorio sul benessere in cui guardavo prima, in cui è proprio per cercare un po' di scoprire, no? Se stessi, forse anche la capacità, sembrano essere dei seminari in cui sì, poi si può un po' scoprire, visto, no? Ci sono 5 date e tra l'altro è a Brindisi. Quindi magari pugliesi all'ascolto, se abitate vicino Brindisi, c'è il corso sul laboratorio del benessere di cui vi parlerà Cecilia, prego. Io parlo sul io sul laboratorio del benessere fa abbastanza sorridere, ma... la cosa che comunque colpisce, che colpisce me, è la ricchezza e soprattutto la varietà, e questo in qualche modo indica che c'è un sud... creativo e effervescente nel non voler essere etichettato con quello, semplicemente con l'idea, no? Che è un po' stereotipata, che non so se è corretto in italiano, come no? Del sud che in qualche modo si siede, piange su se stesso, ma io oserei anche dire allargare un po' comunque anche alla nostra generazione. Siamo quelli che spesso finiscono sulle pagine dei giornali perché siamo i disoccupati, quelli a 30 anni siamo ancora con mamma e papà, e invece è una generazione che io trovo ha molte idee, che nelle difficoltà probabilmente sta cercando di trovare un modo per esprimersi e per costruirsi un futuro e un'identità. Ed è proprio, sai, che la nostra trasmissione I colori dell'anima ha comunque anche come scopo di valorizzare appunto i colori, quindi le emozioni, perché no, di lanciare un messaggio. E quindi per esempio questa associazione, l'ex FADDA, c'è una parte dedicata a coloro che hanno nuovi progetti e che vogliono proporli attraverso questa associazione. Ovviamente c'è un problema fisico di distanza, quindi bisogna essere quantomeno in Puglia, ma quindi loro sono aperti, non è il solito clan di 10 persone che dicono qua mangiamo, beviamo e ci mettiamo tutta la famiglia, ci sistemiamo la famiglia, ma sono aperti. Quindi c'è una pagina che, se non erro, ho postato su Facebook, dove potete proporre un progetto e parlarne con loro per poterlo proporre all'interno della loro associazione, che è una cosa fantastica comunque. Wey, oh. Questo suppongo che sia una canzone valdostana. Queste interruzioni musicali che arrivano all'improvviso, e ho completamente dimenticato quello che ovviamente stavo per dire. Era anche un pensiero. Senti, ma io vedo che qui abbiamo un pugliese doc. Io quasi quasi gli chiederei. Apriamo il microfono. Apriamo il microfono a Francesco Valentini. Beh, diciamo buonasera. Buonasera a tutti. Francesco, buonasera. Innanzitutto grazie di essere venuto. Ma di niente. Di niente. Quando si può fare, si fa, e siamo sempre a disposizione. Ecco, hai abbandonato cani, uccelli, gatti e petti rossi stasera. Beh, meno male, dai. Ma è 3 settimane che lavoravo di seguito, quindi. Allora, diciamo che lavoro fai, Francesco. Faccio il veterinario. Faccio il veterinario qua a Bruxelles, mi occupo di cani, gatti, conigli, uccelli, galline. Pezzi animali da compagnia. Dillo che hai avuto anche il pappagallo. Beh, voglio. Che quando suonava il telefono rispondeva. No, infatti. Cioè non rispondeva, esatto, materialmente, però... Diciamo aveva imparato a copiare la nostra voce quando rispondiamo a te. Fantastico. Senti, Francesco, io ti chiedevo poco fa se avessi sentito parlare di persone che effettivamente avevano organizzato una cosa simile, quindi aperto fondato un'associazione per valorizzare, per esempio, quella che è la tua zona, la provincia di Bari. Beh, gli esempi diciamo non mancano, ce ne sono tanti, ce ne sono alcuni che naturalmente sono un po' più datati nel tempo, che risalgono un po' alla prima immigrazione, quindi di gente che è ritornata dalla prima immigrazione. Quindi stiamo parlando del? Intorno agli anni 70-80. Ok. Ma ci sono anche degli esempi. Dov'è che emigravano gli italiani negli anni 60? Beh, io vengo da un piccolo paese, Locorotondo. Nel mio paese, diciamo, erano... naturalmente il Belgio era una delle mete più importanti, poi c'era il Sud America principalmente. Mm-hmm. Le persone che conosco, erano, a cui faccio riferimento, erano immigrate in Venezuela, quindi. Mm. Sì. E poi ci sono anche degli esempi un po' più recenti di persone che cercano chiaramente di mettersi insieme e di cercare di valorizzare quello che è il prodotto. Dai, vogliamo l'esempio. No, niente, l'esempio. Quelli più datati non posso non pensare a uno zio di mio padre che appunto è immigrato in Venezuela. La famiglia di mio padre era una famiglia diciamo molto povera, contadina, e sono immigrati negli anni 50, sono rivenuti 10 anni dopo e hanno messo su un'azienda di costruzioni. Poi da questa azienda di costruzioni sono ingranditi fino ad arrivare a essere una potenza sicuramente. Però penso che mio zio, e lo dice sempre, infatti lui ha scritto anche un libro su questo, che si chiama da quassù si vede il mare, nel senso fa riferimento alla contrada in cui abito, da cui si vede il mare, anche essendo 20 chilometri di distanza. Come si chiama tuo zio, se vogliamo trovare questo libro? Si chiama Giuseppe Valentini. Giuseppe Valentini, da quassù si vede il mare. Esatto. Benissimo. E quindi quello che diceva lui è che dopo, acquisendo varie esperienze in Venezuela, provando a fare delle aziende anche laggiù, è ritornato in Puglia con nuove idee, nuovi stimoli, nuova forza, e questo gli ha permesso poi di diventare una potenza, almeno nel piccolo del mio paese, diciamo. Tra gli esempi più recenti, mi piacerebbe essere io quello che ritorno e metto su qualcosa, però diciamo che ci sono... Vabbè, mai dire mai, esatto. Francesco. Sottolineature in diretta radiofonica. Vabbè, ci vorrebbe l'istituzione all'occhio rotondo per fare sta cosa. Però, no, vabbè, a parte gli scherzi, ci sono tanti miei amici che comunque cercano di emergere, soprattutto di valorizzare quelli che sono i prodotti del mio paese, è tipicamente il vino, l'olio, di valorizzare un po' il turismo. Ma l'idea, diciamo, è non solo cioè queste persone che hanno aperto queste fondato queste associazioni, sì, sono, oltre a valorizzare il prodotto in sé, hanno creato proprio qualcosa che sostenesse il prodotto, quindi non solo vendere l'olio piattaforme. Esatto, ma non solo, ma anche appunto, come dicevo, la valorizzazione. E non parlo solo della vendita, anche nel far conoscere quella che è la realtà di persone che non sempre di persone che lavorano, di persone che comunque vivono in un territorio che a mio avviso è bellissimo e che sono contente di farlo e che lo fanno con passione. Che poi, diciamo una cosa, io perlomeno il feedback che spesso sento anche dagli stranieri, e che poi è una cosa che un po' tutti invidiano all'Italia, è il fatto di essere rimasti comunque ancora un paese autentico, in cui le cose si fanno in casa, in cui hai l'amico che magari produce quella cosa, per cui insomma questo è particolarmente importante anche forse nella promozione poi di quello che è il prodotto italiano, e anche per capire da dove insomma qual è la storia, da dove viene, perché in quel territorio. Esatto, e sicuramente adesso non limitandosi sui prodotti, credo che non sia proprio il tema, però voglio dire, capendo, c'è anche la voglia appunto di riscoprire quello che è il proprio passato e le proprie radici attraverso questo. Francesco Valentini, noi ti ringraziamo, perché non rifare qualche altra domanda, so che Cecilia aveva ancora delle domande per te, non abbiamo avuto tempo, la linea alla regia e ritorniamo da te tra qualche minuto. Mi rifiuto, disse il netturbino. Si è ucciso il libro di matematica. E perché? Aveva troppi problemi. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, ben ritrovati sempre qui su Radio Alma 101.9 FM, e stasera siamo con, come sempre, l'ultimo lunedì del mese, con Cecilia e con Angela alla regia, e stasera anche Francesco Valentini, veterinario in vacanza stasera, dalla Puglia con furore. E di che parliamo stasera? Stiamo parlando di alcune associazioni meridionali nate da ragazzi molto in gamba, che hanno fondato appunto associazioni per valorizzare i famosi cervelli di ritorno, che hanno valorizzato il patrimonio culturale, artistico, ambientale del meridione. E tra l'altro è su queste esperienze che si basa un libro che a me sembra parecchio interessante, che si chiama Sud Innovation, di Franco Angeli e di Stefano Consiglio e Agostino Ritiano, che raccoglie 11 storie di giovani innovatori meridionali, e alla fine di marzo sarà in tour nei luoghi di cui parla per raccogliere ancora più informazioni e sponsorizzare il suo testo. Quindi Sud Innovation, di un casino di gente che adesso non ripeterò, però lo troverete abbastanza facilmente. Quindi 11 associazioni meridionali. Ma quindi abbiamo parlato di Palermo, abbiamo parlato della CLAC, del CLAC Club, abbiamo parlato della Puglia con il suo ex FADDA, e a me farebbe piacere parlare anche di altre regioni meridionali. Che ne dici, Cecilia? Sì, beh, ci sono altri esempi come... Aiuto, chiedo scusa. Come ad esempio ci sono dei progetti anche in Calabria che sono sviluppati, e in particolare segnaliamo www.calabresicreativi.it. Direi che il nome del sito è già un programma. E sai di che parla, Cecilia? Guarda, stavo cercando di aprire prima la loro pagina la loro pagina web, ma con il telefono è praticamente impossibile. Allora, in realtà che cosa vendono? Loro si occupano di rendere digitale, hanno delle competenze digitali abbastanza importanti, e quindi cercano di creare una piattaforma informativa telematica, quindi online, per valorizzare i loro territori calabresi. Perché? Perché loro dicono è inutile continuare oggigiorno a vendere un turismo diviso in compartimenti stagno, cioè dell'albergatore che fa le cose per i cavoli suoi, il ristoratore, il museo, lo stabilimento balneare, ma mettiamo tutto insieme, insegniamo a queste persone i rudimenti dell'informatica e cerchiamo di unificare tutte queste informazioni in modo tale da semplificare al turista l'accesso alle nostre zone. E quindi ha parlato con suppongo che siano oppure è un genio calabresi. A Calabrese, hai ragione. Con la vecchietta, quella che sta nella stradina e che vende souvenir della Calabria, piuttosto che l'albergatore che c'ha 4 camere, le ha messo insieme tutti coloro che vendevano qualcosa. E per esempio fa un esempio che trovo abbastanza simpatico: per esempio, con i rametti degli alberi di nocciole piantati dagli agricoltori, l'artigiana locale realizza le bacchette magiche da regalare a chi completa il percorso al Museo della Magia. Che bello! Adesso sai che io voglio andare, perché voglio anche la mia bacchetta magica. Certo, poi tu di magie, Cici. Ci sei stata in Sicilia, in Calabria? No, io mai. Credo di essere solo passata una volta in macchina per andare in Sicilia. Come? I funghi da dove li compresco? Ecco, si va nei boschi alla Calabria. Sì. Ma apriamo il microfono a Francesco, che so che sei stato parecchie volte in Calabria. No, vabbè, era più che altro per attività culinarie che sono stato in Calabria, quindi, come al solito. Cioè, vogliamo i dettagli? No, vabbè, di solito in Calabria io andavo a raccogliere i funghi, le castagne, a prendere l'anduia, a prendere il peperoncino, no? Mm-hmm. Però la Calabria è bella, va? No, io sono passata solo una volta. Noi al nord andavamo sulle Alpi, raccoglievamo comunque i funghi, non c'era l'anduia, ma vabbè, c'era la Bresaola, erano altre zone. Io invece in Calabria ci sono stato per fare un concerto con un'orchestra di quelle come questa qua. Suo figlio torna. Aspetta, tamponiamo la lacrima. E niente, quindi mi ricordo di questo paesino sperduto tra le montagne calabresi, e siamo arrivati veramente in questo paesino che erano quattro case e avevano quattro case e un grandissimo enorme campo sportivo, e abbiamo fatto questo concerto nel campo sportivo. C'erano tipo 20 persone, però loro hanno chiamato l'orchestra, c'era una, la prologo, e poi dopo ci hanno invitato tutti davanti casa lo, le case loro con, hanno incominciato a scendere la pasta, l'anduia, il salame, abbiamo mangiato tutti insieme. È stata veramente una bella serata. E voi quanti eravate? Noi eravamo una ventina. Cioè eravate 20 e 20, e c'era un musicista per... No, è stata veramente una bella esperienza. E i calabresi, poi sono stato anche in un paese vicino, Gioia Tauro, e lì è stata veramente una bella esperienza. La Calabria è bella, bisogna andarci, andateci. Tra l'altro da Bruxelles ci dovrebbe essere, almeno in periodo estivo, dovrebbe esserci Ryanair che arriva diretta. Valencia, sì. dovrebbe esserci la Brussels Airlines su Vibo Valencia. La Brussels? Perché pure Ryan credo che poi vada in periodo estivo. Sulla Mezia. Ah, ecco, eccolo informatissimo. Francesco informatissimo su Ryanair. Ma a questo punto passiamo nuovamente la linea alla regia con Angelo, che ha un altro brano da farci ascoltare. Quindi a me andava anche un attimo di riprendere questi siti, in modo che, se avete tempo, ragazzi, io li ho postati tutti, ma sarebbe bello che poteste dare uno sguardo anche voi. Quindi, per quanto riguarda la Sicilia, il clac-lab.org, per la Puglia exfadda.it, vicino Brindisi, per la Calabria calabresicreativi.it, che sono quindi sono i calabresi creativi che usano i social network per mettere insieme albergatori, artigiani, commercianti, e così da sviluppare il turismo. E poi in Campania ne parleremo dopo questo brano che alla regia Angelo ci farà ascoltare, è Rural Hub, quindi hub.it. Telefonata araba. Qui Ali. No. Ah. No, aspettate, ho sbagliato. Ripeto. Telefonata araba. Allo? No, qui Ali. Buonasera di nuovo a tutti, scusate, mi sto riprendendo dalla freddura che la regia ci ha regalato. Ogni tanto arrivano come interferenze queste freddure e voi non potete sentire le risate, tra l'altro, di Angelo quando le legge, ma noi da qui sentiamo tutto, e quindi uno si dice questa, poi arriva in diretta radio e vabbè, è il bello della diretta, è anche questo, no? Comunque, torniamo a noi, torniamo seri, ricadiamo nei panni dei bravi presentatori radiofonici, e stiamo parlando questa sera partendo da un articolo che Carla ha letto, e stiamo parlando di associazioni che nel sud dell'Italia stanno facendo un po' ribollire, insomma, il tessuto sociale, e portano alla luce nuove idee, innovazioni. Oh, mamma mia, questa musica quando parlo veramente distrae. Comunque, abbiamo già parlato della Puglia, abbiamo parlato della Calabria. Possiamo spostarci verso una regione... In fondo, hai detto Cecilia, faceva no, la Campania dopo, chi se ne frega della Campania. No, rosico solo perché non c'è il Lazio, e la Lombardia in queste cose non viene mai riportata, per motivi che... No, niente, incredibile, dall'inizio della puntata dico, fammi parlare della questa associazione, la Rural Hub di Napoli, no, parlane dopo, che dobbiamo fare qua? Con questo accento sicuramente l'ho detto. Esatto, proprio così, mamma fa... Ecco che è in atto il duello tra le nostre due presentatrici, nord contro sud. Tanto non potrai vincere, perché non ci sono stati articoli sul Lazio, è solo perché sono tutti in galera, non scrivono più niente ormai sul Lazio, abbiamo dei problemi nel Lazio. No, diciamolo che è semplicemente un articolo sul sud. Allora, dato che erano in dubbio se Lazio era centro, era sud, che cavolo, l'hanno escluso. Che è una cosa che nessuno si è... Se lo chiedi a un milanese è sud. Profondo sud, però probabilmente se lo chiediamo a Francesco, che è pugliese, il Lazio... Eh no, estremo nord. No, è nord il latte. Perché siamo tutti a sud di qualcun altro, in fondo. Anche per noi è anche un lombardo. Da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Esatto, per noi è anche un lombardo, no? A sud. Aspetta, chi era quello che diceva che la Toscana era profondo sud? Vabbè, non ricordo. Un ligure, magari, non lo so. Valdostano. Un valdostano, esatto. Allora, ma mi fai parlare di Napoli? Sì. Me l'ha impedito tutta la puntata. No, ti lascio tutto il tempo che vuoi per parlare di Napoli, purché... Perché ci si riesca a mettere comunque un minimo, sai, di professionalità, di distacco, con obiettività, senza preferenze. Dai, ci proverò. Allora, innanzitutto voglio dare il sito di questa associazione, si chiama Rural Hub, quindi hub.it, ed è un'iniziativa nata da un team di giovani per rilanciare l'agricoltura come patrimonio locale, occasione di lavoro. Ecco, io volevo fare, perché prima quando tu mi hai detto che il sito era Rural Hub, io, siccome... Parla inglese, ma è una ragazza che va a fondo. Io vado a fondo, mi sono detta in fondo come si definisce un hub. E quindi ho trovato su internet, ed è un termine in informatica e telecomunicazioni, nella tecnologia delle reti informatiche, un hub, letteralmente in inglese fulcro, mozzo, elemento centrale, rappresenta un concertatore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento. Si chiama Rural Hub ed è un luogo virtuale ma anche fisico, in quanto si trova nel quartiere San Ferdinando a Napoli, quindi un luogo virtuale che mette in contatto persone, idee e progetti di social innovation applicata alla terra. In pratica aiutiamo i giovani imprenditori dell'agroalimentare attraverso incubatori di start-up, piattaforme web per raggiungere consumatori, incontri di formazione. Uno degli scopi è riportare al centro il valore dei prodotti della terra affinché, insomma, non se ne arricchiscano coloro che si occupano delle catene intermedie, quelle che fanno arrivare poi il prodotto al supermercato, ma che si arricchisca fondamentalmente chi ha coltivato la terra e non tutti gli altri. E parlano di un concetto simpatico, il Catuzzo Society. Mi sono detta, ma che... Ah, veramente? E il Catuzzo è un processo di combustione lenta della legna per produrre carbone di alta qualità e allo stesso tempo permette di tenere puliti e curati i boschi. Inoltre fanno workshop per i giovani imprenditori per quanto riguarda la green economy. Cecilia, vuoi approfondire la green economy? Tu che approfondisci ogni parola. Green economy mi cogli impreparata, mi devi avvisare durante gli intermezzi pubblicitari, musicali. E no, ma a me la cosa che ha colpito di questa associazione quando andate sul sito è intanto il loro logo, che è molto quasi familiare, sembra c'è un alberello, insomma, stilizzato. Però perché ho cercato la parola hub? Con le mele annurche, che ce l'hai tu le mele annurche a Milano? Che sono le mele annurche? Sono le mele che stanno dietro il logo, le famose mele annurche, che erano delle mele che erano bruttarelle e quindi i coltivatori pensavano non valessero un cavolino e le davano agli animali. Poi a un certo punto un coltivatore si è detto assaggiamo. E porci. E poi alla fine un contadino si è detto bah, però una volta le volesse assaggiare come sono Soborg. E sono saporitissime, guarda, una volta te la porto una da Napoli e ti faccio vedere quanto sono buone. Facci porci. Come hai detto che si chiamano? Mele annurche. Mele annurche, mai sentite. Fanno il liquore di mele annurca, la marmellata di mele annurca, e sono piccole, sono quanto una clementina. E sono saporite. Ah, quante cose si scoprono, vedi? Frequentando Terroni. No, non è solo quello. La varietà, insomma, forse un po' italiana è assolutamente... Comunque, quello che volevo dire è che mi piace molto il loro accostare la parola rural, che è proprio rurale, cioè che fa pensare proprio alla campagna. Le origini, con hub, che è un termine invece prettamente... moderno informatico, quindi insomma è un bel modo di portare probabilmente anche innovazione, insomma. Brava. Cambiamento. Cecilia, mi piace questa riflessione. Ma Francesco, che cosa ne pensa di un'associazione del genere? Scaccolami. Con questo intermezzo, diciamo, in tema di Puerch. No, cosa ne penso di questa associazione? No, è bene, bene, bene. Bisogna far venire fuori tutto quello che c'è in Italia. Noi siamo, dal punto di vista culturale, gastronomico, della varietà, siamo il paese più ricco del mondo. Francesco for president! Ma tu lo sapevi che producendo carbone si tiene pulita e curato il bosco? Ah, voglia, ma pure allevando le pecore. Perché che fanno? Spiegaci, il processo non mi è chiaro. No, vabbè, anche in generale, tenendo bene i terreni, tenendo bene i boschi, curando l'agricoltura, facendo un modello di agricoltura che sia comunque sostenibile e che preservi il territorio, si ha la possibilità veramente di recuperare delle zone che sono comunque abbandonate o comunque lasciate a se stesse. Quindi io credo molto in questo e penso che il fatto che ci siano tante associazioni da questo punto di vista sia positivo. E non posso non fare riferimento, me l'hai servita su un piatto d'argento, purtroppo al non mantenimento dei terreni in maniera ecologica, come hanno fatto per anni e anni purtroppo nella Terra dei Fuochi. E proprio ieri è morto Schiavone, che è stato colui che ha rivelato tutto l'inferno dei rifiuti, di cui parla anche con Moore, eccetera. E è stato stroncato da un infarto ed è stato forse il primo pentito che ha permesso un pochettino di scoprire tutto quello che è stato fatto sottoterra, addirittura in altre zone. Vabbè, non è la questione di Schiavone, ma in altre zone addirittura hanno buttato scorie nucleari, hanno fatto palazzi sopra. Cioè, diciamo che ci sono associazioni del genere, ma purtroppo la nostra terra l'hanno devastata. Quindi se ci fossero più associazioni come queste, più associazioni che meno a delinquere, associazioni che possano veramente proclamare una green economy, la valorizzazione dei prodotti della terra, progetti, idee, quindi per il benessere del nostro territorio sotto tutti i punti di vista, non solo economico ma proprio quello della salute della terra in cui vivono i nostri cari, in fondo, perché per il momento noi siamo qua. Però... Ma per questo forse poi è anche così importante, perché comunque dei tanti italiani che ci sono comunque qua in Belgio, molti vengono dal sud e ci sono molti ragazzi, insomma, della nostra età, coetanei e anche più giovani, che sono molto in gamba. E io penso che questo sia, cioè, che sia bello anche aver potuto approfondire questo tema questa sera, soprattutto per un motivo, perché comunque forse in un periodo come questo, in cui in qualche modo c'è l'incertezza economica, la crisi di cui si parla sempre, è proprio il momento in cui in qualche modo può rifiorire, no? E rinascere l'attività. E devo dire che vedere tutte queste iniziative fa comunque sperare, perché c'è qualcosa che si muove. Mm-hmm. Vuol dire che comunque forse c'è una parte di degli italiani, di coloro che sono all'estero, che sono tornati, o anche semplicemente di quelli che hanno deciso di non lasciare il bel paese, che comunque continuano ad andare avanti, a guardare, a sperare un futuro, e perché no, magari abbandonando un po' il modello del dover fare un sacco di soldi, tra virgolette, in qualche modo stanno recuperando un po' una tradizione che poi fa parte della storia di ogni famiglia, no? Italiana. Certo. Comunque, vista l'ora, se vengo ai colori dell'anima e non mi fate scegliere il colore della serata, veramente m'offendo. Bravo, Francesco! Francesco, allora, il colore per stasera? Vabbè, dai, abbiamo parlato di verde, abbiamo parlato di speranza, come si dice. Io direi che il colore più appropriato è proprio il verde, la speranza mai si perde. Cecilia, ti ringrazio per essere stata con noi, Francesco per essere stato con noi, Angelo per essere stato con noi, Per le barzellette, Ermenegildo per essere stato con noi, Eustacchio pure. Policastro. Policastro, Policarpo, oggi era San Policarpo. Tanti auguri a tutti i Policarpo che conosciamo. Anche gli Eustacchi, già l'abbiamo detto. E Angelo, che dici? Qualcosa saluta per concludere? Saluta. Lo psicotico oggi è il nostro regista che non è interattivo. Non è interattivo, quindi noi da Ciao Radio a tutti, ci vediamo quando? L'ultimo lunedì del mese di marzo, che non so cos'è. Che non sappiamo qual è, ma è l'ultimo lunedì di marzo. Però gli ultimi, scopritelo. Cecilia, gli ultimi? Gli ultimi? Gli ultimi che? Saranno i primi. Gli ultimi saranno i primi. Qui mi hai proprio beccato impreparata. Dai Cecilia, che sei in Quaresima. Già fai il corso pure sull'Islam. Mamma mia. Non ti scordare, Giulia.